I lavori di domani di Anna Marino. Avete mai pensato che il futuro si possa disegnare un po' come fanno i bambini? Avete mai pensato che si possa ridisegnare, reinventare addirittura il car sharing? Avete mai pensato che la casa del futuro potrebbe ancora evolversi ed essere disegnata in modo diverso? Anche se in questo momento sembra che il futuro non si possa neppure immaginare, c'è chi si forma per progettarlo. Gli Interaction and Service Designers si occupano della progettazione delle relazioni tra di noi, esseri umani e i dispositivi digitali, che siano un oggetto, uno spazio, un servizio. È una disciplina recente che si è sviluppata con l'avvento del digitale e che ha l'obiettivo di rendere possibile e facilitare l'interazione con app, siti web, sistemi operativi, assistenti vocali, dispositivi interattivi e via così. L'Interaction Designer lavora su 5 dimensioni: dalle parole all'immagine, dagli oggetti al tempo e non ultimo il comportamento, il modo in cui un utente si comporta, cioè come interagisce, cosa sa prima e cosa ricorda dopo l'interazione, cosa percepisce, sono aspetti fondamentali perché possono rendere un'esperienza desiderabile, efficace, piacevole da ricordare nel tempo e da raccontare agli altri. E noi, come sempre, sul sito di Radio 24, alla pagina programma, vicino appunto al podcast e alla descrizione di questi lavori, segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni e la formazione, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura. Grazie a Michele Aquila, che ci spiega i segreti per il futuro della formazione per Interaction and Service Designers. Quali sono le figure più gettonate in questi settori? Il ruolo più gettonato è sicuramente quello dello User Experience Designer, ovvero quel progettista che si occupa della progettazione delle esperienze di uso relative ad un prodotto o ad un servizio. Pensiamo ad esempio al car sharing. Oltre a questi ruoli ovviamente ce ne sono anche altri, come ad esempio il design researcher o anche ovviamente il service designer. In questi casi sono più orientati sulla ricerca, sull'analisi e sullo studio degli utenti. Dall'altra parte invece il service designer è quello che si occupa più di un approccio infrastrutturale, che cerca di mettere insieme tutti quanti gli attori e tutti quanti gli stakeholder coinvolti in un determinato servizio. Certo, allora spieghiamo che cos'è questo interaction design e il service design, anche per capire insomma in questo settore quale ventaglio di persone, di figure ci sono, che sono anche utili insomma e utilissime adesso in un momento in cui tutto è virtuale per l'emergenza sanitaria. Le divisioni tra i due ruoli non sono sempre ben definite, ma possiamo dire che sì, il service designer da un lato si occupa di come un'infrastruttura funziona, come un sistema funziona. Ti faccio di nuovo l'esempio del car sharing. Quindi mettere insieme tutti gli attori coinvolti, la città, il provider che fornisce le auto, chi le pulisce, come funziona i pagamenti e così via. Ovviamente sempre cercando di redistribuire valore tra tutti quanti i soggetti coinvolti, non ultimi anche gli utenti. L'interaction designer è quello che si focalizza più invece sull'interazione. Nel momento in cui ad esempio io sblocco la macchina, ovvero come funziona l'applicazione, se l'esperienza è piacevole, facile da utilizzare e così via. Certo, ormai la creatività in questo periodo è anche la possibilità di utilizzare, diciamo, nuovi servizi, nuovi prodotti, il fatto di cambiarli e adattarli ovviamente all'emergenza o a, diciamo, la flessibilità del mercato che anche prima dell'emergenza esisteva, è un punto chiave insomma di questa formazione. E anche lei, a forza di spiegarlo alla voce, diciamo che in questo momento sforza un po', ma è necessario a gran voce dire che in questo momento questa formazione è una formazione chiave. Come avviene appunto la formazione nei campi del interaction design e del service design, e quali figure di designer vengono fuori? È una disciplina giovane, quindi non c'è un percorso definito. Io direi che avviene per step. Presso la scuola in cui insegno ci occupiamo di una formazione post laurea, studenti che hanno avuto esperienze lavorative, ma io direi che essenzialmente, oltre alla scuola ovviamente, dove noi ci occupiamo di mettere in relazione gli studenti con il mondo lavorativo, ovvero gli studenti realizzano progetti che sono sempre promossi o realizzati in collaborazione con aziende del settore, oltre a questo ci sono tutta una serie di attività che devono succedere nel mondo reale, ovvero fuori dalla scuola, le conferenze, i meetup, quindi incontrare e creare un network è fondamentale, perché si tratta di un lavoro fortemente multidisciplinare. Un lavoro che in questo momento necessita di una formazione particolare che non c'è, che voi state mettendo in piedi. Ovviamente non c'è una formazione classica tradizionale, lo dice lei, è giovane, e quindi fondamentalmente la community e lo scambio di informazioni, come stiamo facendo anche in questo format, in questa trasmissione, è importante per costruirsi insomma una formazione. Qual è la vostra formazione step by step? È un percorso che dura un anno, è accelerato, lo potremmo definire una sorta di acceleratore per la carriera degli studenti. Una serie di moduli che si susseguono, sono 5 moduli uno dopo l'altro. In ogni modulo c'è un workshop, è un progetto pratico che viene sviluppato in collaborazione con un'azienda e che finisce sempre con una sorta di prototipo. Quindi se si parla di un'app, si realizza un prototipo di un'app. Se si parla di un dispositivo interattivo per la casa di domani, gli studenti costruiscono e fanno funzionare un prototipo di questo dispositivo, perché è il modo migliore per consentire agli utenti, al pubblico, all'azienda, di percepire l'idea finale dello studente. E quindi quante ore ci sono, bisogna spendere insomma in questa formazione, come avviene, quanti giorni online, oppure diciamo da quando partono le iscrizioni? Noi abbiamo un sistema di iscrizioni distribuito durante l'anno, cioè settembre, novembre, febbraio. Non è full time, nel senso che ci sono delle attività che si fanno in classe, lezioni da parte di esperti, professionisti, ci sono delle revisioni con i docenti che seguono gli studenti, e poi c'è tempo per lavorare. Ogni studente può organizzarsi come meglio crede per lavorare principalmente in team. In presenza oppure no? Come state svolgendo adesso i master? Ci stiamo muovendo attraverso varie modalità. Ovviamente è una scuola che si fa in presenza, perché è importante avere un contatto in classe. Attualmente stiamo lavorando in modalità mista. Qual è la forchetta di guadagno per queste nuove figure, anche a seconda della seniority? Sono giovanissime come figure. Un junior può avere un stipendio medio intorno dai 23-25 mila, fino ad andare poi verso i senior, che vanno da 35-50, diciamo. Lo stipendio medio può essere sui 30-34. E ora è l'ora di prendere appunti. Lo dico agli ascoltatori, li troverete anche sul sito nell'introduzione al podcast. Riassumiamo: prendete carta penna, i vostri device, via con gli appunti. E quali indicazioni, app e siti per formarsi, informarsi e per la ricerca del lavoro? E noi, come sempre, lo segnaliamo, come per ogni puntata del Lavoro di Domani, che va in onda in pillole e poi in versione podcast original sul sito di Radio 24, alla pagina programma, proprio vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro. Segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare sul vostro device o sul vostro PC per avere le informazioni e la formazione, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura. Oggi grazie a Michele Aquila, che si occupa della formazione dell'interaction design e del settore del service design. Allora, quali sono app e siti utili? Li dividerei in due parti: siti tradizionali per la ricerca del lavoro, da LinkedIn e tutti i vari gruppi di discussione, ma anche altre piattaforme, non so, menziono una a caso come Glassdoor ad esempio, ma oltre a questo poi ci sono, come dicevo, eventi o attività che vengono svolte sul territorio. Quindi penso ad esempio a quelli che possono essere i Fab Lab o i Makerspace, cioè dove le persone o i designer, anche in interaction o service, ma anche altri tipi, categorie di progettisti si trovano per svolgere lavori, costruire team per competition, anche un co-working può essere un luogo in cui ovviamente si incontrano persone. Dall'altro lato invece ci sono tutte quelle altre tipi di attività, come ad esempio conferenze o meetup, che sono più orientate alla ricerca e alla scoperta di tematiche, di approcci nuovi. Penso ad esempio al lavoro che svolge Stuart Candy o il gruppo del Speculative Futures Milano, una sorta di progettisti che stanno sperimentando delle nuove pratiche per approcciarsi allo studio dei possibili futuri, ovvero cosa può succedere nei prossimi anni a venire, come un progettista deve essere pronto per rispondere a queste nuove possibili emergenze. Pensiamo ad esempio al Covid, ha stravolto le nostre vite, non eravamo pronti, come potremmo essere preparati meglio per affrontare questo tipo di emergenza? Questo è un tema, ovviamente non c'è una risposta, ma ci sono progettisti che si ritrovano, ne parlano, organizzano meetup o conferenze sul tema. Il futuro si può progettare, la domanda insomma che ci facciamo tutti, e ovviamente c'è la possibilità di farlo anche attraverso specifiche figure che possono immaginarselo. Ovviamente questi sono i lavori anche del domani per questo. Che tipo di futuro intravede per queste figure, anche un futuro sostenibile, anche legato alla sostenibilità, perché la progettazione ormai dovrà tenere conto anche di una sostenibilità, non solo ambientale, quindi adattarsi e modularsi. Ecco, un'ultima cosa, un consiglio da lasciare, si chiamano takeaways, insomma un consiglio da lasciare per i nostri ascoltatori, per i giovani. Abbiamo ospitato a Milano quest'anno, poco prima che la pandemia arrivasse in Italia, a febbraio, una conferenza, si chiama Interaction Conference. Tutti gli interventi sono disponibili online, la conferenza era a pagamento, ma ora tutti i contenuti sono liberamente accessibili. È una piccola miniera di informazioni, di visioni su come si sta muovendo la disciplina e quali possono essere gli sviluppi futuri, quindi curiosare tra i video di tutti gli interventi di questa conferenza, che è una delle più importanti conferenze dedicate all'interaction design a livello mondiale. Vale mille astuzie, come il proverbio cinese. A curiosare tra questi video vale mille astuzie.